se ti senti una diva, qui nessuno ti caga. Se ti senti gran figa, per me sei una piaga. Se ti muovi ancora per farti notare, io ti faccio un sorriso per dirti sei una troia. È inutile che pensi che la tua Roma toglie i sensi, solo se mi togli due volte che potresti crearmi scompensi. Non ce l'hai solo tu, anche ne una, ma mi sta sulla tua più grande bula. Tu è stretto indispensabile come la canzone di Balù, e non è indispensabile come puoi pensare tu. Facilmente paragonabile ad una torta di mele calda, ma la tua è ben salda e non si muove da lì come dal Banshee, non si muove Mafalda. È inutile che la metti in discussione, mettila a disposizione del primo che passa e che non è in condizione. Non ha studiato dizione, ma per stare con te basta avere i coglioni in ebollizione. Sì, ma fai attenzione, fatti prestare il maglione se fa freddo. Se non viene al portone io col cazzo che scendo. Fottiti, farti tutto il viale con i tacchi. Io non sono una pedina e tu non sei il mio giocatore di scacchi. Se ti senti una diva, qui nessuno ti caga. Se ti senti gran figa, per me sei una piaga. Se ti muovi ancora per farti notare, io ti faccio un sorriso per dirti sei una troia. Queste donne sono stronze e me sono ancora più stronzo. Loro parole come frecce, i fatti come Thompson. Prova costume, prova anelli e shampoo sui capelli. Le donne con le diete in bocca solo i suoi piselli. E ora che ci penso sono anche naturiste, sono prime sulle liste per la causa degli uccelli. Ti piace tanto viaggiare ma sempre negli ostelli. Scuse di merda, peggio della merda che ti fa Giotti Vanelli. Comprendi e dimmi se ti offendi, se dopo due secondi ti domando quanto prendi. Su face foto di cazzo mentre segui Gigi nei concerti, e poi ti incazzi se ti scrivo troia nei commenti. Non fai una ceppa da mattina fino a sera e tutti i soldi di papà che spendi, comprando sempre oggetti che alla fine sono orrendi. E tu non te ne rendi conto, ma che pretendi? Io ti sparo a fondo, oh, che sei una lo so, amica figa, te lo dico, rima è l'ora del tuo grow. Basta cazzate spacciate peggio delle migliori annate di eroine in blow. Oh oh oh oh oh oh oh. E stai con me, mascara, palla, stucca, morto peggio della statua di per te. Ti senti figa, ma è solo l'impressione. Corone, reginette di stopar di palle, io vi cago a colazione. Se ti senti una diva, qui nessuno ti caga. Se ti senti gran figa, per me sei una piaga. Se ti muovi ancora per farti notare, io ti faccio un sorriso per dirti sei una troia. Se ti senti una diva, qui nessuno ti caga. Se ti senti gran figa, per me sei una piaga. Se ti muovi ancora per farti notare, io ti faccio un sorriso per dirti sei una troia.